radiation, radiation. Bentornati ad una nuova puntatona speciale. Questa sera la definirei forse uno spin-off di Rocks Off, proprio per elogiare anche il grande lavoro che stiamo facendo il lunedì, portando vari gruppi che ci contattano e contattiamo. Quindi questa sera non solo faremo una puntata specialissima su un gruppo che io apprezzo particolarmente perché ha fatto la storia e le ha date sia alla scena metal che specialmente a Michael Jackson, perché vedremo dopo con un loro album, saranno gli unici a scalzare un impero che è stato quello di Michael Jackson alla numero uno di ogni chart possibile, quindi sbalzata chiaramente da un gruppo famosissimo come i Nirvana. Ma questa sera non solo parliamo di Nirvana, ho con me un ospite chiaramente di eccezione, nonché un batterista, musicista anche lui. Lascio subito la parola e si presenta da solo, perché è Giuseppe Di Sarno. Buonasera ragazzi, buonasera, sono Giuseppe, un piacere e un onore partecipare a questa puntata, appunto, nella quale parleremo e racconteremo nel nostro piccolo della band che penso abbia condizionato la gioventù di milioni e milioni e milioni di ragazzi intorno a tutto il mondo, me compreso, e particolarmente. Ma sarà banale anche forse chiedertelo, ma mi sapresti dare una motivazione del perché hai voluto questa sera parlare con noi a Metal Zone di Nirvana? Ma perché penso che ripensando alla gioventù, ai pomeriggi strani che ogni ragazzo passa, io li curavo chiudendomi in camera ascoltando Territorial Pissing a manetta, e chissà cosa pensavano i miei vicini, i miei genitori, ma è stata la mia medicina. Secondo me pensavano benissimo, perché ascoltavi veramente bella musica sicuramente. Quindi ti direi che potresti farci una piccola introduzione di questo gruppo. Ti lascio proprio un po' di carta bianca questa sera, la Metal Zone è tutta tua. Grazie, grazie. Introdurli con parole banali sarà troppo appunto semplice non cadere nella banalità, se vogliamo parlare di un gruppo come questo che ha devastato la scena musicale nei primi anni 90. Parlare di Nirvana secondo me è molto difficile, perché è una band che in poco più di 6 anni, credo, di produzione musicale ha dato una svolta a tutta la scena, non solo rock, non solo ha creato un genere che è il grunge, ma credo abbia influenzato anche la musica pop. Infatti loro, secondo il mio modesto parere, hanno appunto introdotto concetti di musica pop al punk e all'alternative rock. Parlare di loro per me è strano, perché anche se non ho vissuto nella loro epoca, li ho ascoltati appena dopo la morte di Kurt. Posso dire che fin dal primo album il suo modo di suonare non è mai cambiato, non si è mai piegato, nonostante il successo che ha avuto poi dopo Nevermind. Lui non ha mai cambiato il suo approccio alla musica, che è stato comunque sempre geniale, e probabilmente resterà una figura che mai più rivedremo in tutta la storia musicale. È un gruppo americano nato nella città di Aberdeen, nel Washington DC. Il frontman famosissimo, sappiamo bene chi è, Kurt Cobain, il bassista Chris Novoselic, vari batteristi si sono seduti sul ritmo dei Nirvana. Fino al primo album è stato Chad Channing, Bleach è stato il primo album. Poi dopo la registrazione del primo avremo il cambiamento che ha poi dato il successo alla band. Ma non vogliamo svelare nulla, anzi direi di far parlare loro ancora attraverso le loro chitarre, le loro distorsioni, il loro rumore così ritmico e armonico da veramente invogliarci a suonare ed emularli su chitarre e batterie varie nella nostra carriera. Chi non ci ha provato? Sono stati degli innovatori, ripeto, il grunge è stato grande proprio grazie a loro. E da Bleach del 1989 noi ci andiamo a sentire Blue e About a Girl. Non mi resta che ricordarvi che siete nella Metal Zone e che questi sono i Nirvana. We'll be right back. E torniamo prontamente in diretta, ma quanto mi piacciono queste sonorità che stiamo... sono bastate due canzoni già per mettermi di buonissimo umore. Voglio anche ringraziare gli Anghere, ovviamente, grazie per il vostro supporto. Mi sta arrivando anche il loro CD autografato, vorrei anche ricordare, con la loro canzone Corrupsao, figlio da puta, che apre l'album Choke. Veramente un bellissimo album da sentire, hardcore, fatto bene. Poi me lo passi. Sì, non mancherò di fartelo ascoltare. Quindi torniamo ancora sui Nirvana, perché abbiamo detto poco sul primo album. Quindi diciamo che questo primo album, che già dal titolo, appunto, Bleach, che significa candeggina, richiama a qualcosa che ha a che fare con quegli anni, quando l'amore era un po' troppo libero, era un po' troppo senza protezioni, e quindi il problema dell'AIDS era un problema veramente grave. E quindi c'era una campagna pubblicitaria dell'epoca che invitava i tossicodipendenti, appunto, ad usare la candeggina per sterilizzare i loro aghi. Quindi una forte provocazione quella di Cobain, che con quest'ultima canzone che abbiamo sentito, About Girl, dedicata a una sua ex ragazza probabilmente, consacra, è forse l'unico pezzo dell'album che è differente, perché l'album è veramente influenzato da gruppi come Melvins e quindi anche dall'heavy metal, ma è una balla, ci regala una ballata che è una delle ballate veramente più belle che ho ascoltato in tutti questi anni. Quindi continuiamo, direi, dicendo che Nirvana, secondo Kurt Cobain, significa liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dal mondo esterno, e questo si avvicina al mio concetto di punk. Secondo te cosa c'è di vero in questa dichiarazione di Cobain, in quella che è la tua esperienza con questo gruppo? Riguardo alla mia esperienza posso dire che è vero, perché innanzitutto l'ha detta lui, quindi sarà vera. Diciamo che poi, ascoltando molto la musica, io credo che i testi dei Nirvana e la musica siano caratterizzati da due volti, in quanto lui comunque, ascoltando quello che scrive e che dice, che canta, si capisce che è devastato da una sofferenza interiore che non lo abbandonerà mai, nemmeno col successo, nemmeno con i soldi, nemmeno le droghe, le donne riusciranno a placare questo suo malessere che lo accompagnerà poi alla fine, che ben tutti sappiamo. Parlare di Bleach, un album che ai più giustamente è sconosciuto, un album che viene ascoltato sempre perché, diciamo, giustamente, colpiti da Nevermind, si torna poi indietro per capire quali siano le radici di questo gruppo, e non si può non riconoscere, ascoltando i due, l'album Bleach appunto e quelli che susseguiranno poi nella loro storia, non si può non riconoscere che appunto nel primo album manca una struttura ritmica che soltanto con l'avvento di Dave Grohl poi completerà appunto quello che è il sound dei Nirvana, che da qui a poco conquisterà il mondo. Un Dave Grohl che non figura però nella formazione iniziale dei Nirvana, che però si aggiunge subito prima, come diceva Giuseppe, all'uscita di Nevermind, che sarà un album devastante davvero sotto tutti i punti di vista, che sarà un album che darà loro un successo veramente internazionale, specialmente grazie al passaggio su MTV, sull'allora giovane MTV, di un video che noi ricordiamo tutti perché l'avremmo visto e registrato. Ma io non lo ricordo, qual è? È Smell Like a Teen Spirit. Ma io questa canzone non la conosco. Non la conosci? No. Faccio finta di crederti. Allora le proponiamo questa grandissima scaletta, perché Nevermind, ragazzi, è un album da avere assolutamente nella propria collezione. Qualsiasi genere sia il vostro preferito, Nevermind è un pezzo di storia della musica. Ragazzi, lo so che non è il canale giusto, ma anche se vi piace Gigi D'Alessio, ragazzi, Nirvana è un passaggio che dovete fare, si devono ascoltare, sono formativi, cioè anche una volta al giorno, se un urlo, datelo su una canzone di Nirvana, vi sentirete meglio. E noi lo daremo adesso sicuramente in Fuori Onda, ascoltando questa lunga playlist, dando merito e onore a Nevermind, ossia sentiremo Smells Like a Teen Spirit, In Bloom, Lithium, Polly, Territorial Pissings. Lounge Act e Stay Away. Io vi ricordo che loro sono in Nirvana e siete ancora nella Metal Zone. Cause today from my friends are in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Look on this Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God. Thank you. myself, want a man, please myself. Got to know, haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself, want a man, please myself. Polly said, says her back hurts, she's just as bored as me. She called me off my guard, amazes me the will of instinct. Isn't me, haven't seen, let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself, want some help. Myself, got some rope, haven't told, promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Facciamo un piccolo break in questa playlist stupenda dei Nirvana, perché il nostro ospite, non solo il nostro ospite, ma si è aggiunto anche un altro ospite in incognita, però vogliamo, non si sa, vogliamo, vuole rimanere in incognita, non sappiamo il perché, ma afferma essere un grande estimatore nonché fan e conoscitore della band, e questo ci fa piacere, ma logicamente non ci coglie di sorpresa, perché come abbiamo già detto è una band che a tutti piace, un po' come la Coca-Cola, credo. Forse è l'orgoglio di questa nuova generazione, potrei dire, perché è l'unico che mi ha detto che apprezza Nirvana e veste con magliette di Nirvana addirittura. E non di Rocco Hunt, attenzione. Quindi, Giuseppe, parlaci di questa, di queste piccole curiosità che vuoi regalarci questa sera su Nirvana. Più che curiosità, volevo intervenire appunto per far capire qual è stata la potenza di questo album. Abbiamo già descritto la formazione al completo dei Nirvana con Dave Grohl alla batteria. Si sa che una volta aggiunto il batterista, loro andarono in cerca di una casa discografica che potesse appunto fargli registrare questo album. La trovarono e fu la stessa casa discografica che pubblicò l'album dei Sonic Youth. Chiuse il contratto per una stampa di 250.000 copie. Si sa che nel gennaio del 92 riuscirono addirittura a spodestare Michael Jackson dalla numero uno della chart americana come album più venduti. Quindi, che dire, credo che siano inutili altre parole, siano difficilissime, così come scegliere quale sia la canzone più bella di quest'album credo sia una blasfemia. E infatti, Giuseppe, qual è secondo te la canzone più bella di questo album? Ecco, appunto, io preferisco In Bloom e Territorial Pissing, credo che siano i due capolavori di questo album. Ecco, però forse voglio entrare un po' più nello specifico parlando anche dei testi di queste canzoni, perché sappiamo che in inglese lui si riferisce molto all'uso di una pistola, oppure di sparare qualcosa, oppure dei testi decisamente introspettivi, come anche prendere delle cose che ha sentito e trasformarle nel caso di Polly, perché era una canzone cantata da camionisti americani e parlava in modo criptico di uno stupro, quindi lui l'ha voluta rendere pubblica sempre in maniera geniale, secondo me. Quindi mi associo pienamente alle tue scelte, perché In Bloom è veramente una canzone stupenda. E per quanto riguarda Territorial Pissing, credo che l'impatto sia talmente brutale che le parole passino in secondo piano. E allora dai, riprendiamo questa playlist brutale con il Nirvana, ancora con Metal Zone e ancora con Territorial Pissing. Call ancora nel 1992, in Nirvana, appunto su una crescita di un successo veramente internazionale, rilasciano una nuova raccolta con delle canzoni dei Rare Recording che vogliono condividere con il pubblico. C'è sempre da dire che poi dovremmo parlare dell'ultimo album, poco dopo l'uscita dell'ultimo album, di uno, appunto, dell'evento della morte, quindi noi abbiamo delle teorie abbastanza particolari da dirvi. Quindi partiamo subito con altre canzoni da In Sesticide, che poi sarà il titolo di questa raccolta. Sentiamo Dive, Sliver, Binason, Turnaround, Son of a Gun, e quindi si ripete ancora, come ti dicevo, il triste destino di Cobain, che cita nelle canzoni e nei testi una pistola o un fucile. Quando si parla di Kurt si parla sempre di pistole. Aero Zeppelin è la famosissima Aneurysm, che è veramente una canzone spettacolare. Quindi non mi resta che ancora lasciarvi a loro, a Nirvana, al grande Kurt Cobain. E questa è Metal Zone. Yeah. Take a good look.

torniamo ancora live, ancora in Metal Zone, ancora con i Nirvana. Vogliamo salutare Luigi Pernice e tutto il bar Europa che ci sta ascoltando, e vogliamo salutare calorosamente. Lo invitiamo soprattutto magari a venire qua, perché non è fra di noi. È perché c'è un coniglio bianco che staziona di fronte alla radio. Gigi, salvalo. C'è un coniglio. A proposito, lanciamo noi questo messaggio perché non è riuscito a farlo lui. Speriamo che questo coniglio stia bene, sia stato restituito al suo proprietario. E se proprio il coniglio non è più, speriamo sia passato almeno per un ruoto Ghippatana. No, io spero di no, perché sicuramente è un coniglio domestico, quello non è un coniglio di allevamento. Comunque, non divaghiamo troppo. Tornando a noi, ascoltando questo CD, come voi, logicamente, anche noi l'abbiamo fatto. Ecco. Stavamo appunto facendo delle osservazioni riguardo appunto al fatto che loro, dopo il grandissimo successo che Nevermind gli ha portato in tutto il mondo globalmente, loro fanno una scelta per molti discutibile: mandano via il loro produttore, lo cambiano prima di appunto registrare Incesticide. Questo è un messaggio preciso, loro fanno capire che non si piegano a quella che è la legge dei numeri e delle vendite. Ecco, proprio tornando a Incesticide, a quello che abbiamo appena ascoltato, secondo te, da batterista adesso, ti è sembrato, come è sembrato a me, che quasi ogni pezzo sia stato diverso e possa essere un'interpretazione dei vari generi musicali che poi andavano in voga all'epoca? Innanzitutto non si può discutere come musicista Dave Grohl, per quello che ha fatto sia con i Nirvana sia nella sua carriera che poi ha proseguito dopo la fine del gruppo di Washington. Lui ha sempre avuto una vocazione per la musica, un talento estremo che non ha avuto paragoni, probabilmente il più talentuoso della band, secondo me. Infatti lui, anche nel periodo in cui suonava con i Nirvana, ha sempre tenuto nascosto al resto del gruppo il fatto che lui comunque suonasse e componesse da solo pezzi. Infatti si vedrà poi in In Utero, ci saranno delle collaborazioni a mano, appunto a due mani, tra Dave e Kurt, che porteranno vita a un sacco di pezzi. Nel frattempo, dopo appunto il successo di Nevermind, Kurt Cobain si sposerà con la buona donna, con quella buona donna di Courtney Love, inizieranno i problemi, cioè inizieranno, si protraggono i problemi con la droga per lui, problemi con l'alcol per quanto riguarda il bassista. Ecco, secondo te può essere associato un po' alla filosofia punk che poi Sid Vicious ha fatto sua, perché in effetti hanno vissuto una storia abbastanza analoga di coppia, ecco, di coppia, una coppia legata comunque dalla droga e dall'eroina soprattutto. Penso che sia anche giusto dire che quando in quel mondo la droga è una cosa che gira sempre e comunque, e lui purtroppo, complice anche questo suo malessere del quale abbiamo parlato prima, penso abbia sfogato su questa valvola appunto i suoi problemi. È proprio questo malessere, diciamo, si esplicita nel suo ultimo lavoro con la band, perché arriviamo nel febbraio del 1994, che sarà un anno, diciamo, è l'anno dei Nirvana, ma è anche l'anno in cui morirà Kurt Cobain. Noi, diciamo, da In Utero credo ci sia ben poco da dire, perché comunque debutta la numero 1 delle Billboard 200 in America, e la cosa interessante che poi sentiremo dopo, magari farai tu qualche appunto ancora e qualche altra notizia interessante, perché stavamo parlando anche nei fuori onda di alcune ipotesi, perché a noi ci piace fantasticare su alcune cose, quindi per noi certo. vi diremo poi la nostra dopo. Direi di passare a In Utero, che secondo te come ce lo presenteresti tu questo album? Penso che appunto è l'album che li riporta un po' alle radici. Le due canzoni che ascolteremo saranno Rape Me e Heart Shape Box. Volevo solo ricordare che questo è un album registrato in 2 settimane ed è costato 25 mila dollari. Quindi Giuseppe vuole ascoltare assolutamente queste canzoni, ma non saranno le uniche, anzi ne saranno molte di più oltre Ship Box e Rape Me, perché sentiremo per prima Serve the Servants, poi appunto At Ship Box e Rape Me, Dumb, Penny Royalty e All Apologies, proprio per lasciarvi questa impronta viva, perché di quello che parleremo dopo sarà abbastanza triste per noi che abbiamo vissuto l'epoca e triste per la musica in generale. Quindi vi ricordo che loro sono in Nirvana e che questa è Metal Zone. Now I'm born alone. South of one. again. laxatives, cherry flavored antacids. Ancora live on air con Radiation e Metal Zone, perché è il momento appunto che vi avevo annunciato già prima, ossia quello in cui purtroppo mi tocca parlare di un evento tragico, ossia della sua, della morte di Kurt Cobain. Una morte avvenuta l'8 aprile del 1994 a Seattle, quindi viene trovato a casa sua praticamente con un fucile ancora in mano. Molto probabilmente si pensa sia stato un suicidio, però come dicevo precedentemente ho visto io in rete che sono state mostrate alcune foto della scena appunto in cui si vede Kurt Cobain disteso con degli oggetti abbastanza particolari, perché c'è una busta con delle cartucce, c'è molta eroina, ci sono altri oggetti che appartengono al rocker ormai morto, ma soprattutto viene trovato un documento che poi risulterà essere il testamento, l'ultima cosa che ha scritto Kurt Cobain. Anche questo testamento sarà abbastanza controverso, perché le ultime quattro linee di questo scritto risultano avere una calligrafia completamente diversa. Quindi vi sorprendiamo e vi facciamo sentire dalla voce di Paola Maggeri l'ultima lettera di Kurt Cobain. Parlo dal punto di vista di un sempliciotto un po' vissuto che preferirebbe essere uno snervante bimbo lamentoso. Questa lettera dovrebbe essere abbastanza semplice da capire. Tutti gli avvertimenti della scuola base del punk rock che mi sono stati dati nel corso degli anni, dai miei esordi intendo dire, l'etica dell'indipendenza e di abbracciare la vostra comunità, si sono rivelati esatti. Io non provo più emozioni nell'ascoltare musica, e nemmeno nel crearla, nel leggere e nello scrivere, da troppi anni ormai. Questo mi fa sentire terribilmente colpevole. Per esempio, quando siamo nel backstage e le luci si spengono e sento il maniacale urlo della folla cominciare, non ha nessun effetto su di me. Non è come era per Freddie Mercury. A lui la folla lo inebriava, le ritraeva energia, e io l'ho sempre invidiato per questo. Ma per me non è così. Il fatto è che io non posso imbrogliarvi, nessuno di voi. Semplicemente non sarebbe giusto nei vostri confronti né nei miei. Il peggior crimine che mi possa venire in mente è quello di fingere di far credere che io mi stia divertendo al 100%. A volte mi sento come se dovessi timbrare il cartellino ogni volta che salgo sul palco. Ho provato tutto quello che è in mio potere per apprezzare questo. Ho apprezzato il fatto che io e gli altri abbiamo colpito e intrattenuto tutta questa gente. Ma devo essere uno di quei narcisisti che apprezzano le cose solo quando non ce le hanno più. Io sono troppo sensibile. Ho bisogno di essere un po' stordito per ritrovare l'entusiasmo che avevo da bambino. Durante gli ultimi tre nostri tour sono riuscita ad apprezzare molto di più le persone che conoscevo personalmente e i fans della nostra musica, ma ancora non riesco a superare la frustrazione, il senso di colpa e l'empatia che ho per tutti. c'è del buono in ognuno di noi e penso che io amo troppo la gente, così tanto che mi sento fottutamente triste. Il piccolo triste sensibile. Perché non ti diverti e basta? Non lo so. Ho una moglie divina che trasuda ambizione e empatia e una figlia che mi ricorda troppo di quando ero come lei, pieno di amore e di gioia. Bacio tutte le persone che incontra perché tutti sono buoni e nessuno può farle del male. E questo mi terrorizza a tal punto che perdo le mie funzioni vitali. Non posso sopportare l'idea che Francis diventi una miserabile autodistruttiva rocker come me. Mi è andata bene, molto bene durante questi anni e ne sono grato, ma è dall'età di 7 anni che sono avverso al genere umano. Solo perché a tutti sembra così facile tirare avanti ed essere empatici. Penso sia solo perché io amo troppo e mi rammarico troppo per la gente. Grazie. Grazie a tutti voi, dal fondo del mio bruciante, nauseato stomaco, per le vostre lettere e per il supporto che mi avete dato negli anni passati. Io sono troppo un bambino incostante, lunatico. E non ho più nessuna emozione. E ricordate, è meglio bruciare in fretta che spegnersi lentamente. Pace, amore, empatia, Kurt Cobain. Francis e Corney, io sarò al vostro altare. Ti prego, Corney, continua così, per Francis, per la sua vita, che sarà molto più felice senza di me. Vi amo. Delle parole chiaramente fortissime che abbiamo sentito, sono le ultime che ci ha regalato appunto Kurt Cobain. Cosa ne pensi tu, Giuseppe? È un turbinio di emozioni. Credo che lui nell'ultima lettera abbia un po' descritto cosa possa significare vivere un malessere, vivere con un male dentro. Appunto, credo che per un artista come lui sentir dire da una persona come lui che non ha più gioia nel vedere migliaia di persone che ti acclamano, che vogliono sentire la tua voce, le tue canzoni, credo sia una cosa indescrivibile e impensabile. Quindi ci regala questa ultima emozione, però prima di questo evento spiacevole bisogna ricordare comunque che ha partecipato a vari tour, specialmente in Germania, e poi c'è questo caso del 4 marzo quando doveva suonare a Roma, ma viene trovato svenuto, molto probabilmente in overdose. E quindi ci sono dei problemi anche nell'esibizione live. Insomma, sono una band che sul palco non si sono mai comportati proprio in modo egregio, perché spaccavano quasi tutto alla fine di ogni esibizione. Insomma, un cachet veramente altissimo per sostenerli, che però, diciamo, si concretizza in questa che, come diceva Giuseppe, è la massima espressione di un artista che nonostante abbia vissuto comunque una vita con dei problemi anche dovuti a dei farmaci che assumeva regolarmente, quindi forse Rohypnol, insomma, erano dei farmaci abbastanza potenti. Quindi sentir dire da un artista come lui che non ha più, diciamo, la vita, non vuole più avere la vita e condividere la sua arte con gli altri, ovviamente è stato bruttissimo. Però Giuseppe voleva sottolineare che ci sono stati anche dei lavori postumi. Certo, si è aperta una diatriba subito dopo la morte di Kurt. Logicamente ognuno ha preso la sua strada. Il bassista e il batterista in seguito dichiareranno che non hanno voluto intraprendere una carriera insieme per non far credere alle persone di voler continuare quello che non aveva più senso di esistere. Dave Grohl ha, logicamente, come tutti ben sappiamo, continuato e creato una nuova band che ha poi che è ancora tutt'oggi, diciamo, sulla scena mondiale, e credo sia una delle più produttive. Il bassista invece Chris Novoselic è stato impegnato in vari progetti senza però raggiungere il successo che ha avuto con i Nirvana. Numerosi sono stati i Greatest Hits che hanno, con i quali loro hanno appunto raccolto il meglio della loro produzione in quanto a CD. Ma la mia memoria non mi inganna quando mi ricordo di aver acceso la televisione e aver sentito gli MTV Unplugged dei Nirvana, che è stato veramente un momento magico, direi quasi etereo, in cui veramente hanno fatto apprezzare la loro tecnica e lo spessore delle parole. Forse vengono confuse troppo dalla distorsione di alcune canzoni. Però prima di sentire quest'ultimo blocco di canzoni, come sempre parte la nostra sigla. Radiation. Consueto momento dei ringraziamenti. Come sempre ringraziamo la Proloco, che quest'anno ci ospita, e potete trovarci a Via Roma e potete venirci a trovare quando volete. Le porte di Radio Action sono sempre aperte. Vi invito sempre a seguirci cercando Radio Action su Facebook oppure su Spreaker. Potete anche ascoltarci in podcast e soprattutto potete ascoltarci in mobile dal vostro cellulare. Voglio anche ringraziare i nostri supporter e il nostro main supporter Antonio Federico. Noi torniamo a quest'ultima tranche di canzoni. Vi vogliamo lasciare, perché Giuseppe veramente lo vedo che è entusiasta di questa serata che abbiamo trascorso insieme, gli brillano gli occhi. Vi lasciamo con Come As You Are, Something in the Way e Where Did You Sleep Last Night. E vi lascio i saluti anche di Giuseppe. Certo, saluto tutti i radioascoltatori, i web ascoltatori, ringrazio Giovanni per l'opportunità che mi è stata data e vi do un saluto caloroso. Non sarà l'unica volta che ti inviterò, sappilo, quindi preparati. Un saluto anche da Giabri, ciao Max. È il nostro ospite incognito, ecco. Beh, vi lascio a queste ultime tre canzoni. Questi sono stati Nirvana e grazie per essere stati con me nella Metal Zone. This was written by the Vaseline's. Well, it's a rendition of an old Christian song. Underneath the bridge, top is sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the sea. Three cups of tea already, but thank you. What are they tuning, a harp? I thought we were a big rich rock band. We should have a whole bunch of instruments. In the pines, will the sun don't ever I will shiver the whole night.